Drago, dobbiamo cominciare. Cosa no? Cos'è? Cos'è? Rimandiamo. Ma cosa? Lasciami in pace. Ho visto, sai chi ho visto? Caronte. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago, un saluto a tutti i bambini all'ascolto. Però purtroppo, cari bambini, oggi dobbiamo cominciare con una rampogna. Una? Con una rampogna. Tito adesso. Ma rampogna, italiano, no? Toscano, no? Gente, cioè, adesso tu fai gramellini, fai la radio di servizio e ammonisci tutti come gramellini con i capelli. Lancio un severo ammonimento, una predica ai bambini italiani. Cosa c'entra il naso lungo poi adesso con gramellini, con i capelli? Non lo so. Però si tratta di un giudizio impietoso sui bambini italiani, che arriva niente meno che da 500 albergatori europei che hanno definito i bambini italiani i più insopportabili del mondo. Ecco. Allora, l'associazione Donne e Qualità della Vita, di cui ignoravamo l'esistenza, ma che evidentemente si dà da fare per pubblicizzare bene il nome dell'Italia nel mondo, ha fatto questa ricerca. Inutili, Drago, ma inutili. Comincia a beccarti del maleducato, dell'incivile e dell'irrispettoso. Ma io? Tu come bambino italiano sei maleducato, incivile e irrispettoso. Questi sono i tre aggettivi con cui questi 500 albergatori europei hanno definito il bambino italiano medio ospite dei loro alberghi. Quindi maleducato, incivile e irrispettoso. Che è un identikit perfetto. Perfetto. A contendersi il primato della maleducazione, indovina chi sono? I figli dei romani, 19%, e i figli dei milanesi, 17%. Seguiti dai napoletani, 14%, torinesi, 13%, bolognesi, 11%, baresi, 10%, palermitani, 8%, calabresi, 7%. Tra i più educati, fiorentini e gli umbri, che incassano appena il 3% dei giudizi negativi, seguiti dai veneziani con il 5%. Ma, è un elenco di pregiudizi regionali? Sì, infatti. Ma poi cosa ne sanno i 500 albergatori europei di come si comporta un barese, per esempio? Scusa, dici che in Slovacchia sanno che esiste Bari e i baresi e Cassano? Non lo so, sicuramente a Bari non sanno che esiste la Slovacchia, però fatto sta che i bambini più amati dagli albergatori sono gli svedesi, seguiti dai danesi e dagli svizzeri. Visto? I svizzeri. Noi svizzeri! Voi svizzeri. Ma alla fine cos'è che fanno sti poveri italiani per essere così odiati? Allora, cioè, faranno un po' subito, di chiasso. La ricerca comprende anche tutto l'elenco di cose che non vanno bene. Che tipo poi chiasso giocano in Svizzera. Chiasso in Vabbè, Svizzera, comunque. Sì. Giocano con l'ascensore, fanno chiasso in Svizzera. Girano per i corridoi in pigiama e tengono il volume della TV in stanza troppo alto. Vabbè, ma cosa vuol dire? È il famoso Italian style. Ma cosa? No? È quello che all'estero tutti ci invidiano. Perché di colpo non va più bene? Ma scusa. Ma Italian style si Italian style. Il design delle scarpe, dei vestiti, delle Ma no, Italian style è tutto quello che è Italian. Ma cosa dici? Style, capito? Tutto quello che è Italian è anche style, automaticamente. Ecco. Anche giocare con l'ascensore è stylish. Italian style. Sì. Italian, stylish. Girare in pigiama, vabbè, sentire la TV a volume troppo alto. Cosa hai detto poi? Sì, mangiare, fare chiaro. Insomma, tutto Italian style. Italian stylish, sì. Ci puoi aggiungere le sopracciglia e le basette curate. Molto Italian. Molto style. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. E ora, bambini, ricreazione. Voi sentite un po'. Devo segnalarvi un fatto gravissimo che mi è capitato. No, allora, tutte le volte c'hai un fatto gravissimo, tutte a te capitano. Allora, stavolta ascoltatemi. Qualche giorno fa c'è stata una fiera del fumetto, no? Sì. Lucca Comics and Games, sì, famosa. Sì, ma a fine ottobre, qualche giorno fa. Vabbè, più... fino a ottobre, qualche giorno, uguale, no? Sì, è sul pezzo. Il fatto che è successa una cosa gravissima. Che non mi hanno fatto entrare. Sono un bambino alla fiera del fumetto? Non mi hanno fatto entrare. Ma come? Avevo anche il biglietto, E come mai allora? Non c'avevo come? Solo che era vietato l'ingresso ai bambini. Ma non c'è anche il cartello fuori, come quello per i cani? No bambini, Ma se è una fiera del fumetto, cioè, deve essere apposta per i bambini. No. No, è vero, Comunque io non mi sono arreso, Abbiamo fatto 400 chilometri. Chi? Il mio padre, mi ha chiamato lì da solo. Non lo so. Sono un minore. Quindi lì a un certo punto ho detto, faccio la mattana, ho finto un attacco epilettico. Tu? Sì, mio padre con la baba, gli ho fatto l'occhialino. L'occhialino, sì. L'occhialino, no? Quando dici, hai capito che adesso... L'occhialino, Tienimi corda. Allora, mio padre si è convinto, ha intavolato una trattativa con gli organizzatori della fiera, ma un'avvertenza sindacale, no? Mentre tu per terra sbavavi con la cintura no, in bocca. No, la signora mi ha dato un gelatino e mi era seduto sulla panchina aspettando. Tutto. Poi, dopo due ore mio padre li ha convinti, mi hanno fatto entrare, a farmi entrare. Ok, va bene. Allora rimaniamo così. Mio padre ha detto, lei è soddisfatto? Sì. Allora, il bambino entra bendato. Ma come bendato? È bendato. Ma perché? Più di così non è riuscito a tenere. Guarda che non era, ma non è che forse ha sbagliato fiera, perché di fianco a Lucca, a Pisa, negli stessi giorni, mi sembra ci fosse una fiera che si chiama Expo Erotic. Ah, ma vedi, K, che sei molto, molto informato. Me l'hai detto tu. Ma non era un bugiardo, non comunque, è insomma, sareste entrati in quella fiera lì, che sono cose di adulti. Ma no, erotic. Cosa? Erotic, no. No, no, è quella fiera del fumetto, no? Lì c'erano gli adulti travestiti da personaggi di fumetti. Ma tu come hai fatto a vederli che eri con le bende? Beh no, ma una volta che sono entrato, tutti questi uomini adulti travestiti, mi sono confuso tra la folla. Sono tolto la benda. Hai fatto il furbo. Sono mica, ma forse sono adulti travestiti. Era Expo Erotic, perché se c'erano no, i travestiti, ma lui scusa, si confonde con i cosplayer. Sono i cosplayer quelli lì. Sono uomini travestiti da personaggi del fumetto. Non dire travestiti comunque, perché non fa mai. E poi non solo personaggi del fumetto, anche dei videogiochi, anche dei cartoni animati. Del fantasy. Si vestono come Akira, come Daitan 3, come... Allora, non facciamo le solite, per favore, che mi fate, dite le cose strane perché non capisca. Vabbè, vai, vai, ok. Allora, c'erano sti adulti vestiti. I bambini niente, nessun bambino. Bambini? Ma no, erano solo io l'incognito. Capito. Siamo trovati il padiglione dei giochi dove giocavano, facevano i tornei di carte. Ma non le carte Bristol, a scopone, no? Le cards. Dei giochi di ruolo, no? Cards, sono disegnate con sulle frasi, tipo vai di qui, vai di là. Vabbè, e quelli lì giocano a carte, contenti loro, contenti tutti, no? Questi qui sono tipi strani, i fumettari sono tutti, allora qui vanno dai 15 ai 50 anni i giovani baffetti appena accennati, peluria, i grandi pizzetti, robe improbabili, barbe, calvi, e poi puzzano. Ma come puzzano? Puzzano! Ma chi? Con i loro scarponi da ginnastica, con gli altri tutti slascoli. I fumettari puzzano. I fumettari puzzano. Allora mio padre, sapendolo, mio padre è una vecchia lenza, sa come va. Anche lui. Aveva il balsamo di tigre. Che è quello che si mette prima di testa? Sì. E invece no, lui me l'ha messo sotto il naso. Però se c'è la puzza, passano tra i banchi, questi poi, figuriamoci, nel pieno del torneo, cioè il sudore, certo, no? Se cernevano. E questi ci tengono, A cosa? A sudare? Ma cosa dici? Sì, no, ci tengono a vincere, quindi sudano, si impegnano. Ho capito. Se uno fa Gandalf e vuole vincere, no? C'è lo spadone, vabbè, tutta roba così. La gente con problemi. Vabbè. Quindi, alla fine, la fiera del fumetto, che io avevo tanto sognato. Alla fine è una fiera di disadattati. E vabbè, questo vabbè, stai calmo, cioè vabbè, succede. È un po' una piaga, una gita, dai. Una piega, anzi, che ha preso tutto questo mondo di fumetto. Però alla fine, no, perché la giornata non è finita lì. Cioè, a mezzogiorno eravamo già fuori. Ma come? Però, e non siamo andati a casa, però. Ebbene, è tutto finito. Siamo scappati col balsamo di tigre. E siete andati sul mare a mangiare. No, mio padre ha avuto un'ideona. Ogni tanto anche lui. Allora mi ha detto, allora, se prometti di non dire niente alla mamma, ti porto in un bel posto, sarà il nostro segreto. Ecco, bello avere i segreti di papà. Ho spergiurato subito e siamo andati a un'altra fiera, l'Expo Erotic. Ma vedi. Con la K, eh? Erotic. Ma non è possibile che tuo papà ti abbia portato lì. Già ha fatto un errore a portarti lì in mezzo ai cosplayer, ai travestiti, che già io non porterei un bambino con i travestiti. In più ti porta ancora a Expo Erotic. Voglio dire. Sei andato anche lì bendato, mi auguro. No, lì all'entrata c'è il box per i bambini, gli adulti lasciano i bambini. Lasciano in tutta fretta. La vasca con le palline. Stai tranquillo, il bambino piange, va a fare 6 ore, sono qui. 6 ore. Ma come 6 ore? Beh certo, Quindi per 6 ore. Perché anche lì poi, anche lì fanno dei giochi di ruolo, no? Sì, insomma. Ma non sì. con le carte, dal vivo, c'è cioè in carne e ossa. Sì. Cioè, mio padre ha detto: partecipo anch'io. Sì. Solo che a lui deve essere capitato un personaggio a estrazione, un personaggio brutto. Perché dopo solo 20 minuti. Io già mi stavo divertendo. È uscito fuori imbufalito, urlando. Mi ha preso per il braccio e urlava: ma io non ho fatto 400 km, anzi 800 km per fare il guardone. Guardone, ma papà, cosa dici? Ma no, niente. No, niente proprio. Allora, siamo saltati su in macchina? Mi ha spinto in macchina, zitto, col mutismo assoluto. Chi? Tu o lui? Mio padre! E quindi anch'io. Tutti zitti. Tanto mai stare zitto. 4 ore di macchina, così. No, che 4 ore di macchina? Siamo partiti sgommando da Pisa a Milano 1 ora e mezza. Ma non è possibile. Come no? Ci sono i testimoni, c'è la polizia. Perché arrivati all'ultimo casello, lì a Transtera di Melegnano, poi siamo a casa, e c'era la pattuglia della polizia stradale. Vabbè, 1 ora e mezza a Pisa Milano! I tutor sono andati in tilt! Tito, stai bravo, Tito, non parlava di te. Gli altri, infatti. Secondo voi, cioè, un adulto deve arrabbiarsi, fare una pazzia così? solo perché in un gioco di ruolo ha fatto il guardone. Ma i punti della patente? Già, i punti? I punti? E tu hai i punti della patente? Ma non si parla. Però cosa sai cosa facciamo? Cosa si può fare? Quando fa tanto tu guidi? No. Quando facciamo la denuncia lì, mandiamo che guidavi tu. Così i punti li tolgono a te, no? E mio padre ha bisogno di devo andare in giro. Se mio padre li tolgono per quella roba lì, te li ho 30 punti. Io non ce li ho neanche, perché ne ho 20. Dico ne ho 20. Ne ho 30. La prossima patente è altra 10. Io sto allungando troppo. La denuncia guidavi tu? No, denunciamo che tu guidavi. Che tu guidavi? Che guidavi tu. E poi ti arriverà la multa a casa, ma tu non ti preoccupare, la dia a tua mamma. Dici io non so niente di niente. E tu lo risolverai, è una roba fra adulti, no? Poi i genitori si sentono, no? Sai che ho cambiato il numero di telefono. Però non dirlo a tua madre. Super gol. E poi? Fumetti TV, fumetti TV. È un balzarino. Fumetti TV, fumetti TV. Fumetti TV, crack, bang, fumetti TV, più. Fumetti TV, fumetti TV, fumetti TV, fumetti TV. Siamo alla radio. È vero, e quindi? E quindi? Fumetti alla radio. Fumetti alla radio, chiedo asilo, @radio24.it.